Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio. Maggio è volato via in un battito di ciglia e ora sì che dobbiamo pensare a come passare i nostri pomeriggi d'estate. Che siano vicini o lontani da casa, anche questa settimana, qualche spunto per scoprire il nostro paese. In apertura ce ne andiamo a Padova a vedere l'orto botanico, quindi niente palazzi e castelli, ma ci facciamo raccontare della madre di tutti gli orti botanici. Poca distanza da fare, ci ritroviamo in Alto Adige per sentire come si stanno preparando e poi uno sguardo su una modalità alternativa ma molto richiesta quest'anno, la vacanza in barca. Dal 22 maggio l'Orto Botanico di Padova ha riaperto al pubblico. È necessario prenotare, gli ingressi sono contingentati. Ma secondo la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, che lo ha scelto come destinazione di questa settimana, vale proprio la pena. Destinazione un po' strana in effetti che abbiamo scelto, perché andiamo nel Veneto, andiamo a Padova e in particolare andiamo all'Orto Botanico di Padova. Di solito gli orti botanici vengono considerati, secondo me, una destinazione un po' per addetti ai lavori. In realtà sono dei posti meravigliosi, un po' perché io amo molto le piante, come sai, ma un po' perché sono veramente dei luoghi di apprendimento straordinari. Quello di Padova poi è particolarmente bello ed è particolarmente importante, tanto è vero che è stato dichiarato sito UNESCO, bene UNESCO. Mi fa piacere partire leggendo la motivazione per cui questo orto è stato dichiarato bene UNESCO, perché secondo me ci spiega la sua importanza. Allora, la motivazione è questa: l'orto botanico di Padova è all'origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l'ecologia e la farmacia. Capisci che c'è veramente di tutto. In realtà gli orti botanici hanno un'origine antichissima. Si considera che il primo si possa attribuire addirittura al faraone Tutmosi III, e quindi stiamo parlando del 1400 a.C. In Occidente nascono un pochino più tardi, quindi a cavallo fra XIII e XIV secolo, grazie alla famosa scuola medica salernitana, e in realtà prendono piede e si diffondono maggiormente a partire dal XVI secolo, che è il tempo nel quale nasce anche il nostro orto di Padova, che in effetti non è stato il primo ad essere creato, però vanta il fatto di essere ancora oggi l'orto botanico più antico al mondo che è rimasto nella propria sede originaria. Siamo nel 1545, quando nasce. L'Università di Padova, che in realtà esisteva già da tre secoli, a quell'epoca era famosissima proprio per lo studio delle piante e per il loro utilizzo a scopo medico e farmacologico. In realtà, per quanto l'università fosse importante, famosa, conosciutissima, circa il corretto uso delle piante medicinali, Valeria, all'epoca c'era una gran confusione ed era anche una situazione, come dire, pericolosa, perché alcune piante rischiano di essere dannose se utilizzate in maniera sbagliata. A quel punto quindi Francesco Bonafede, che era un docente, uno studioso, un cattedratico di questa università molto importante, decide di mettere ordine alla materia e decide quindi di dar vita a quello che si potrebbe definire, che era stato definito, un orto medicinale. Quindi, ordinando le piante, dando loro una sistemazione scientifica e evitando che quindi l'utilizzo fosse errato. Per fare questo viene chiesta l'autorizzazione alla Repubblica di Venezia e in due anni l'Orto Botanico di Padova viene creato. E viene creato già in maniera piuttosto importante, perché la prima dotazione era di 1800 piante, che non erano poche. Nasce con il riconoscimento da parte di tutti della sua importanza, tant'è che inizia a essere vittima di furti, ruberie, insomma tutti quanti vanno e prendono le piante officinali e le piante medicinali, che all'epoca erano un bene importante, erano delle piante costose. A quel punto nel 1552 si decide che la situazione non può continuare così, che sono dei beni che vanno tutelati, e quindi si costruisce un muro intorno all'orto botanico a protezione dell'orto e delle piante. A questo punto, a questa data, l'orto assume la forma che in qualche modo noi vediamo ancora oggi. Quindi la forma cinquecentesca ce la portiamo dietro fino ad oggi. Ed è una forma straordinaria, Valeria, perché è un enorme cerchio nel quale è inscritto un grande quadrato che è diviso in altri quattro quadrati più piccoli, nei quali ulteriormente ci sono delle aiuole in cui le piante vengono disposte in forma geometrica in modo da creare dei veri e propri disegni botanici. Quindi in qualche modo, Olivia, è vero che parliamo di un orto, di piante, di fiori, però l'architettura anche qui ha il suo spazio, ha la sua funzione, anche se in questo caso magari le parti sono un po' capovolte. Sì, è proprio vero, l'architettura ha una sua funzione evidentissima. E di nuovo l'architettura di un orto botanico dialoga con un sacco di altre materie, perché questa forma che viene data all'orto di Padova in realtà si richiama a quella che era la forma tradizionale dell'hortus conclusus, che era l'orto medievale che in realtà all'epoca nasceva all'interno dei conventi e che era conclusus, appunto, chiuso nei chiostri, che aveva una funzione pratica, quindi di piante alimentari, di piante curative, eccetera, eccetera, e che però, malgrado la non funzione estetica, non solo era bellissimo, perché c'erano questi disegni, questa grafica, ma in qualche modo richiamava una serie di materie non proprio botaniche, quindi il fatto che fosse diviso in quarti richiamava la forma della croce, il cerchio nel quale era inscritto un quadrato richiamava di nuovo la perfezione della circolarità, quindi un'architettura botanica che chiacchiera con un sacco di altre discipline. E questi orti conclusi e questo orto botanico in questo modo riuscivano ad essere, come dicevo, bellissimi, perché in genere poi al centro c'era sempre una fonte, anche questo in questo caso simbolica della fonte della vita. Questi spicchi con cui si formavano le aiuole chiaramente cambiavano colore e forma nel corso delle stagioni. Quindi era un'estetica architettonica nata per caso, ma comunque straordinaria. I'm not romantic, don't be dramatic. Torniamo però al nostro orto di Padova, che nel corso della sua vita, come tante architetture, ha non cambiato forma, abbiamo detto che è rimasto uguale, ma si è arricchito. Quindi sono stati aggiunti per esempio dei portali di accesso che sono molto imponenti, sono state aggiunte delle altre fontane oltre a quella centrale iniziale. Questo muro che lo avvolge è stato un po' perfezionato, ingentilito, e poi si sono messe statue e busti di botanici famosi, insomma. E quindi è diventato sempre più bello, Valeria, dal punto di vista architettonico. Ma al di là dell'aspetto estetico, la cosa straordinaria di quest'orto è la sua importanza in termini di dotazione e di dotazione botanica. Ci sono 3.500 specie diverse che, se non sono chiaramente tutto l'universo vegetale, ne sono una parte veramente importante. E poi c'è una cosa meravigliosa, che è il giardino della biodiversità. Il giardino della biodiversità è una costruzione, un progetto recente, e raggruppa 1.300 specie che sono divise secondo i diversi biomi del pianeta e sono divise per zone omogenee, quindi c'è l'area tropicale, subumida, temperata, arida. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che visitandolo, siccome è pensato in senso fitogeografico, quindi raggruppando le piante per zone geografiche, noi possiamo fare un viaggio attorno al mondo A partire proprio dalle piante, a partire dall'habitat nel quale le piante si sono sviluppate. E questo è un modo straordinario di conoscere il mondo e anche vedremo di conoscere l'evoluzione dell'uomo. Oltre alla dotazione delle piante, di tutto questo universo qui, mi pare che non si esaurisca qui. C'è anche un'altra parte che è quella della biblioteca. La biblioteca è spettacolare, Valeria, è nata in epoca ottocentesca raccogliendo libri, manoscritti, quadri, planimetrie, fotografie eccetera eccetera e si è sviluppata con un erbario che ormai ha la natura di un vero e proprio museo che tu pensa raccoglie 500.000 campioni che vanno dalle piante essiccate ai funghi, alle alghe, ai licheni eccetera eccetera e che provengono da tutti e cinque i continenti, quindi anche in questo caso un viaggio intorno al mondo in cui davvero possiamo conoscere tutto. E poi c'è il fatto che questo giardino della biodiversità è stato costruito con un'attenzione al futuro e all'impatto ambientale, perché è un edificio tutto in vetro, lungo 100 metri, alto 18, davvero a bassissimo impatto ambientale, sfrutta l'energia solare, modificandola per zone sulla base delle necessità delle aree e delle piante, prevede la raccolta delle precipitazioni atmosferiche in una vasca che poi a sua volta alimenta delle cascate d'acqua che ricoprono l'edificio, ha un pozzo artesiano che fornisce tutto l'anno acqua a 24 gradi per le piante tropicali, ci sono naturalmente pannelli fotovoltaici e una cosa eccezionale è il fatto che l'intero edificio è rivestito da una particolare pellicola che sfruttando i raggi ultravioletti produce una reazione chimica in grado di abbattere in maniera molto sensibile l'inquinamento atmosferico. Quindi è un posto meraviglioso e soprattutto è un posto che ci permette di voltarci indietro ripercorrendo la storia nostra e del mondo, ma imparando a guardare avanti e imparando a guardare avanti in un modo che vuol dire imparare a progettare il nostro futuro in maniera davvero sostenibile. Ci fermiamo per qualche istante, non andate via. Globetrotter 24. Dal Veneto all'Alto Adige il passo è breve. La regione si è messa subito al lavoro per essere pronta alla ripartenza. Da lunedì scorso sono aperte molte strutture. L'attenzione è puntata sulla sicurezza. Erwin Interegger è il direttore generale di IDM Alto Adige. Innanzitutto per noi un giorno decisivo era la chiusura, anche nell'8 di marzo, che l'Alto Adige ha deciso di chiudere tutte le strutture alberghiere, gli impianti di risalita come primi in Italia, ma anche in tutte le Alpi, per il motivo principale di sicurezza e la salute dei nostri ospiti, ma anche dei cittadini di qua. No? Quella era una decisione molto difficile in quel momento, però visto due mesi dopo, era una decisione buonissima, perché sappiamo dopo come si è sviluppata tutta la situazione. Dopo, esattamente due mesi dopo, la provincia ha fatto la legge, sembra l'8 maggio, per la riapertura delle strutture alberghiere e praticamente da due giorni stiamo pian pianino riaprendo, sono alcune strutture che sono già aperte, tutte le strutture sono pronte adesso a ripartire e apriranno nelle prossime due così settimane. È chiaro che le ultime settimane erano dure, difficili per tutti, uno chiaro perché erano chiuse le strutture ma anche perché non ci sono gli ospiti e la cosa più bella per il nostro settore alberghiero è evidentemente avere qua gli ospiti dall'Italia ma anche a livello internazionale e quello solo col fatto è difficile. Dopo la seconda cosa evidentemente la più importante in questo momento per noi era definire con molta precisione quali sono le misure di sicurezza, perché solo con quello si poteva riniziare e abbiamo definito molto chiaramente quali sono queste misure di sicurezza che sono implementate e adesso anche sono pronti gli alberghi a ripartire. Ecco, direttore, magari facciamo qualche esempio perché questo può aiutare le persone a capire anche in che tipo di strutture verranno accolte. Quindi magari qualche esempio di queste misure che avete implementato. In tutte le strutture, noi abbiamo in Alto Adige, chiaro, gli alberghi, gli hotel classici, ma dopo abbiamo anche l'agroturismo, che qua è molto importante, ci sono quasi 3.000 masi che offrono l'agroturismo, e dopo ci sono i piccoli appartamenti, e ci siamo messi d'accordo, ci siamo seduti tutti insieme a definire quali sono le misure per tutti, non solamente per un settore così e per l'altro cos'ha, ma per dire come possiamo garantire la sicurezza massima ai nostri ospiti, ma anche ai nostri collaboratori e cittadini. E così abbiamo praticamente definito tutto un protocollo che tutti devono seguire, struttura grande e piccola, e così per garantire la massima sicurezza. Adesso la sicurezza si è dedicata molto tempo ed è molto ben strutturato e sono tutti pronti e preparati. Secondo punto, e anche a livello offerta, certi alberghi, hotel, eccetera, sono stati molto innovativi anche ad adattare un po' la loro offerta secondo, diciamo, la restrizione, no? Per esempio, devi prenotare per andare nella sauna, o usare un certo spazio wellness, e quello va un po' a misura secondo quello che offre ognuno degli alberghi, ma sempre con la massima sicurezza. Quello uno. Due, anche altre cose tipo in Alta Badia, dove per esempio alcuni rifugi si sono messi insieme e offriscono un cestino con all'interno alcuni prodotti tipici altoatesini, e anche una coperta, e possono sedersi dove vogliono nel prato per consumare, diciamo, o fare il pranzo, no? La merendina, e così via. Anche la Terme di Merano offre picnic in mezzo alla loro bella natura, che c'è uno spazio grandissimo, e così via via, dipendendo un po' dall'albergo, anche dalla situazione, le varie zone offrono cose specifiche, sempre con rispetto delle misure, ma alla fine, diciamo, il prodotto principale, chiaro, che offre l'Alto Adige è sempre l'Alto Adige, no? La sua bellezza, la natura, la sua gastronomia, le strutture che a livello wellness o cose che ogni albergo possa offrire, no? E l'ospitalità, che per noi è sempre la cosa centrale, no? Continuare ad essere. Far sentire le persone, gli ospiti come in casa. Alto Adige, dico, è un'azienda familiare, no? Perché siamo molto piccole, strutture molto piccole, non abbiamo catene, e quello è proprio anche un punto forte dell'Alto Adige. Visto che il presidente della provincia di Bolzano ha annunciato i test gratuiti per tutti coloro che arrivano, vi state attrezzando anche su questo? Sì, chiaro, questo è uno dei punti, anche parte delle misure di sicurezza, è uno che tutti i collaboratori faranno un test settimanale. Quello già è un punto di partenza, perché chiaro, saranno proprio loro che sono in contatto con tanti ospiti, e vogliamo garantire ai collaboratori come agli ospiti la massima sicurezza. Quello è già in azione, diciamo, questo si farà. Un secondo punto è l'offerta, la possibilità agli ospiti che lo vorrebbero, non è necessario, obbligatorio, anche la possibilità di fare il test. In questo caso, probabilmente sarà in parte integrante del pacchetto turistico, no? In questo caso è un po' l'albergo stesso a decidere come lo vuole offrire, ma anche questa come un, diciamo, benefit aggiuntivo a tutte le misure che sono già di base, per dare la massima garanzia e sicurezza anche agli ospiti. Quindi, punto fondamentale, tutti i collaboratori in tutte le strutture, tutto l'Alto Adige, e dopo anche, inoltre, la possibilità, se l'ospite lo preferisce, anche di fare il test anche per loro. quest'ultima domanda volevo chiederle se per caso avete previsto degli eventi particolari durante l'estate, anche se ovviamente sempre a numero chiuso, con il controllo di tutti quelli che arrivano, però volevo capire se c'erano dei momenti fondamentali in quest'estate che avete studiato. Beh, eventi sono difficili, come lei sa bene. Gli eventi tipici che qua ce ne sono tantissimi, ci saranno certi eventi, però quello dipende anche molto dalla dimensione, dal volume, quante persone, bisogna sempre rispettare le distanze. Quindi grandi eventi non ci saranno, no? Dove magari migliaia di persone. Ci saranno più cose piccoline, come l'esempio che ho fatto prima, che tipo sulle malghe le persone, i gruppi si possono organizzare, c'è la flessibilità, diciamo, di fare il loro picnic con un po' più di libertà, eccetera, sui prati. Sono cose così, cose molto più piccoline, autentiche, dove soprattutto si possa sempre garantire la sicurezza, ma i grandi eventi, diciamo, di quelli della città, così sarà molto più limitato. Però l'evento sicuramente dell'Alto Adige, alla fine, secondo me, più spettacolari sono quelli naturali, no? Come tipo la cascata di Parcines, dove è stato certificato che l'aria è particolarmente salubre, oppure le distese infinite del Parco Nazionale dello Stelvio, no, le serate delle Dolomiti. Ce ne sono tanti di quegli eventi che noi possiamo persone, soprattutto eventi naturali. Quest'anno più che mai le vacanze sono tutte da inventare. Per alcuni saranno molto brevi, per altri meno. Dipenderanno dai costi, dai luoghi, dai permessi e dalle disponibilità. Tra le possibilità c'è anche la vacanza in barca. Manlio Accardo è fondatore e amministratore delegato di Sailogy, piattaforma di noleggio per barche. La vacanza in barca è la vacanza che permette di isolarsi. Quindi in un anno, in una stagione come questa, in cui le persone sono un po' titubanti e hanno paura di finire magari in una spiaggia affollata o in un albergo affollato e non si sentono a loro agio, andare in barca gli permette di stare confinati con amici e parenti e senza doversi mescolare troppo. Che tipo di mete vengono richieste? Allora, i clienti italiani quest'anno vogliono stare in Italia. La cosa è ottima. Fondamentalmente vengono richieste le mete più belle, che sono le isole, quindi la Sicilia, la Sardegna, le isole Eolie, e poi le mete più facili, quindi la Toscana, che permette di essere raggiunta in automobile senza prendere traghetti o aerei e dà un ulteriore elemento di sicurezza ai clienti. E per quanto riguarda invece la durata? La durata si è estesa parecchio, perché di solito la vacanza in barca era una parte delle vacanze dei nostri clienti, che magari facevano una settimana in barca e poi anche un'altra o due settimane a terra. Invece quest'anno molti vogliono fare 2 settimane in barca, quindi come unica vacanza stare in barca, il che è altamente comprensibile. Senti Mario, già ne avevamo parlato in passato della tipologia dei prezzi e ci eravamo già detti che la vacanza in barca è abbastanza modulabile. Voi, proprio perché quest'anno c'è anche un incremento di domanda, avete notato anche un aumento dei prezzi? Non particolarmente, in alcune località sì, più che altro proprio perché c'è una scarsezza di barche che non è riuscita a compensare la domanda, però fondamentalmente i prezzi sono quelli degli anni scorsi, anzi ci sono anche tante offerte perché siamo molto in last minute e quindi tantissime società di charter preferiscono essere sicure di riempire le settimane piuttosto che aspettare l'ultimo minuto e vendere al prezzo più alto. Quindi non riteniamo che quest'anno saranno vacanze più care rispetto all'anno scorso. E invece per quanto riguarda gli standard di sicurezza, che è comunque una necessità e una richiesta molto sentita quest'anno da chi si potrà spostare? Allora, quelle sono ovviamente la cosa più importante. Gli standard di sicurezza adottati dalle società di charter sono fondamentalmente di 2 tipi. Il primo è una sanificazione della barca stessa, quindi utilizzare le tecniche che in questo momento sono più, per esempio, per sanificare gli ambienti, per esempio portare ai clienti la biancheria in pacchi sterili in modo che il cliente stesso veda che le lenzuola che vengono messe, le lenzuola di asciugamani che vengono messe a bordo arrivino già sterilizzate Stessa cosa vale per esempio per le pentole e per tutti gli utensili da cucina. Oltre a questa, che quindi è una sanificazione fisica della barca, di tutte le sue componenti, c'è anche tutta una parte in barco, quindi i check-in vengono fatti in zone aperte invece che negli uffici, e i sopralluoghi delle barche vengono effettuati da una sola persona invece che da tutto l'equipaggio, per evitare che ci sia troppo assembramento. Quindi ci sono tante procedure che vengono messe in atto proprio per fare sì che la vacanza sia quanto più possibile sicura. Altra cosa che volevo chiederti è capire un po' che tipo di viaggiatore che tipo di turista si avvicina a questo tipo di vacanza, quindi anche la tipologia di età. Sì, allora, l'età per noi sono sempre estremamente variegate, quindi grazie al cielo la vacanza in barca è una vacanza che si può fare a tutte le età, perché la barca ti permette di fare un po' la vacanza che vuoi, quindi se vuoi essere giovane, single e fare la vita divertente la puoi fare, se invece hai più desiderio di aspartarti e vivere invece in relax puoi fare anche quello. Quindi sulle fasce di età noi registriamo più o meno un ex aequo tra la fascia 20-35 anni, la fascia 35-50 e la fascia over 50. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.